conoscenza con un nostro caro compagno, spesso anche talvolta collaboratore anche delle nostre trasmissioni, per parlarci di un'operazione storiografica abbastanza revisionista, talvolta anche falsa, almeno da quello che mi stavi dicendo al telefono. Quindi ti chiederei un po' di raccontarci che cosa sta succedendo nei dintorni della tua città, dove un museo partigiano, un museo della resistenza, viene trasformato in museo di fine guerra, con tutti appunto i stravolgimenti anche storiografici che si possono fare dietro un'operazione simile. Sì, buongiorno Valerio, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora, si tratta di questo: a Dongo, che è il paese dell'Alto Lago, dove è famoso perché è stato fermato Mussolini durante la sua fuga verso l'estero, no? C'era un famoso, scusate, alcuni, ti interrompo, anche per l'oro di Dongo. Anche, e anche poi per l'atterrito dell'oro di Dongo, del carteggio di Mussolini, eccetera. Esatto. E tutte queste cose, poi per altre cose che magari racconteremo un altro momento, perché fanno un po' ridere, no, su cosa si è costruito. Per dare un'idea, ci sono stati periodi in cui hanno venduto centinaia e centinaia di lenzuola dove aveva dormito l'ultima notte Mussolini con Claretta Petacci. La gente andava e comprava queste lenzuola, cioè ce n'erano a... E questo per dire cos'è stato Dongo, è stato anche un po', quindi, cioè, non c'è da meravigliarsi che poi diventi una cosa di questo genere, quando la storia si lascia, la storia quella vera, concreta, che ha vissuto anche la popolazione, viene lasciata andare così, perché da quelle parti una piccola resistenza, non grande resistenza come c'è stata in Liguria, in Piemonte o in Toscana o anche a Roma, ma è stata vissuta, perché in realtà c'erano tutti questi transiti di nazisti, transiti di fascisti con la Svizzera e così via. Ecco, allora in questo, c'era questo piccolo museo in cui c'erano alcune fotocopie dei giornali dell'epoca, e poi si andava lì, si trovavano, poi c'era anche qualche oggetto così significativo dell'epoca, e si andava lì, si trovavano gli ultimi partigiani rimasti della zona che raccontavano quello che era avvenuto, si girava, si vedeva le zone lì del lungo lago dove erano stati fucilati i gerarchi nazisti, e niente, questo museo adesso è stato chiuso e a quanto pare dovrebbe essere stato trasformato in una cosa grandiosa, che non è più museo della resistenza, ma è stato chiamato museo di fine guerra. Questo per mettere d'accordo tutti, no? Perché di resistenza non se ne deve più parlare. Andiamo d'accordo tutti, vogliamoci tutti bene, allora museo di fine guerra. Innanzitutto Dongo non ha niente a che fare con la fine guerra, perché la fine guerra è l'8 di maggio, non è il 25 aprile, non è il 26 aprile, non è il 28 aprile quando viene fucilato Mussolini. Però viene fatto questo museo di fine guerra. In cosa consiste adesso questo museo di fine guerra? Consiste in videogiochi in cui c'è un sistema interattivo, io non saprei neanche bene cosa spiegare perché non capisco queste cose, non le conosco affatto, in cui si cattura Mussolini e lo si fucila. Adesso io penso che la storia ridotta così è una buffonata. È un videogame. Eh sì, un videogame, una cosa di questo genere, basato su questioni che ancora sono tutte da discutere, perché la cattura di Mussolini, vabbè, si sa come è avvenuta, perché l'interrogatorio di Mussolini all'interno del comune di Dongo, io ho una relazione di uno che era presente, firmata, testata, fatta davanti a testimoni, però non c'è in giro nient'altro di come viene interrogato Mussolini all'interno dei partigiani all'interno del municipio di Dongo, e alla presenza anche del sindaco Rubini, che poi rilascia un testamento, e questo testamento io lo andrò a vedere perché è depositato presso l'archivio notarile, e tramite un notaio che io conosco bene perché eravamo amici con questo notaio. E ecco questo, ma per esempio anche di questi documenti non se ne parla. Poi ci sono altri documenti di cui io sono in possesso, che sono a disposizione di chiunque li volesse vedere, ma non dico che dovevano interpellarmi, però sanno benissimo che io questi documenti, io gli avrei comunque dato delle fotocopie da esporre, da utilizzare anche per queste ricostruzioni virtuali, ammesso che sia possibile fare una cosa di questo genere. Poi c'è da parlare anche di quello che è il pieghevole che viene distribuito. Il pieghevole distribuito riporta delle fotografie di Dongo, dei fatti di Dongo di quell'epoca. Sulla prima pagina c'è una fotografia dove c'è un camion, non si sa bene che camion sia questo, con un carico di partigiani con i mitra. Innanzitutto i partigiani lì della 52esima erano pochissimi armati, perché i lanci non ne hanno avuto assolutamente, le armi se le dovevano procurare. Poi all'interno c'è un'altra fotografia dove significherebbe che la gente di Dongo sta guardando sul lungo lago la fucilazione dei gerarchi, e questa fotografia è fatta con delle persone che guardano nel lago in una stagione che non può essere il 25 aprile, ma deve essere già estate inoltrata, e con dei fotomontaggi ritagliati dal film Mussolini Ultimo Atto. Poi c'è un'altra fotografia che significherebbe la 52esima Brigata Partigiana, e tu Valerio conosci quella fotografia lì, poi mi sembra che anche Radio Onda Rossa l'abbia pubblicata sul suo sito della 52esima Brigata Partigiana, che è l'unica fotografia esistente di questa brigata con quasi tutti i partigiani, più qualcun altro proveniente da altre brigate, mentre questa invece è una fotografia ricavata sempre da Mussolini Ultimo Atto. E poi c'è una fotografia del municipio di Dongo con della gente schierata fuori che in fila eccetera, e con altre persone che camminano per la piazza. Le persone che camminano per la piazza sono prese dal film Mussolini Ultimo Atto. Quella gente lì che invece è in fila davanti al municipio non è che lì ascoltare cosa diceva Mussolini dentro, che era interrogato, perché la stanza dell'interrogatorio era dall'altra parte del palazzo, cioè ben distante dalla strada. Ma non solo, questa gente qui è lì in fila perché andavano a prendere le tessere per il pane, e questa fotografia viene fatta dopo la cattura di Mussolini, ed è una fotografia che era già comparsa con questa dicitura su pubblicazioni d'epoca, insomma la gente su giornali dell'epoca, in cui si diceva la gente in fila per il pane, anche a Dongo la gente in fila per il pane e così via, no? Ecco, questa è la presentazione di questo museo di fine guerra, dove la resistenza viene liquidata completamente, viene ridotto a un videogioco, e lì, secondo le aspirazioni di questi organizzatori, foraggiati da regione, da provincia e chi più ne ha più ne metta, spera che ci arrivi la gente che va a vedere l'Expo di Milano, vada anche a Dongo a vedere queste cose, e loro hanno fatto questo battage pubblicitario sul museo di fine guerra. Questo è quanto succede qui, e quanto in posti dove la resistenza era tenuta ancora in una certa considerazione stanno cercando di ridurre. Ottima testimonianza, ti ringraziamo ancora per questa corrispondenza. Bisogna sempre stare attenti e vigilare comunque su questi accadimenti. Tu spesso sei molto preciso, sei molto attento e puntuale, quindi non possiamo che ringraziarti di queste segnalazioni che ci arrivano da Dongo. Grazie ancora allora. Se vuoi aggiungere qualcosa. Ringrazio Radio Onda Rossa per i servizi che ha fatto sulla Grecia in questi giorni, straordinari, perché anche qui devo dire, io purtroppo qui così posso sentire Radio Onda Rossa solo per streaming, altrimenti qui si sentono solo radio commerciali per quanto riguarda le radio, no? E poi si sente Radio Popolare Milano, che io la definisco Radio Cacca, E questo così per sintetizzare cosa ne penso di Radio Maria, che vabbè, non definisco neanche, basta il nome, basta la parola, insomma. Certo. Quindi ringrazio Radio Onda Rossa che ci dà tutte queste comunicazioni. Grazie, grazie a te per la stima, veramente. A risentirci allora presto. Grazie. A presto, presto, arrivederci e libertà per tutti. Assolutamente, tutti e tutte, grazie. Ciao Gavino. A risentirci, ciao ciao. Questa è la corrispondenza che abbiamo fatto con Gavino, un compagno che ci ascolta, come ci riferiva, nei dintorni di Como, quindi insomma un grande ascoltatore, sempre molto attento a queste vicende storiche che appunto si avvengono nel suo paese, ma non solo, un po' tutta la penisola sta subendo un attacco storiografico revisionista, che poi anche ad uso un politico, verrebbe da dire, per quanto riguarda le nostre vicende resistenziali durante la Seconda Guerra Mondiale. 10:52, ancora un po' di musica, Onda Rossa.